come si dice? Good afternoon. Sì. Good afternoon. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Più facile dall'11 contro 10, palla dentro a cercare Pavoletti che vince questo duello e piazza per il 3-0 Genoa. Pavoletti torna così al gol a 4 dalla fine, 3-0, punizione severissima per il Milan. Certo, non è stato il ritorno di Pavoletti a far volare il Genoa, piuttosto ci si deve domandare perché il Milan batte la Juventus, ha la possibilità di tornare primo in classifica dopo un'infinità di giorni oltre 1660 e all'improvviso viene il braccino. Pierluigi Pardo ieri sera era a Marassi, come a me piace chiamarlo, a raccontare questa partita per Mediaset Premium e voglio subito domandare al mio amico Pier che cosa è successo al Milan. Innanzitutto che ha trovato una grande avversaria contro e questo non si può sottacere, perché insomma sinceramente il Genoa in questo momento è tanta roba, avevamo avuto il sospetto, poi aveva perso in maniera abbastanza avventurosa il derby, però insomma questa è una squadra piena di valori, che gioca un calcio molto intenso, anche molto bello a tratti, un allenatore bravo, con tanti giocatori che stanno bene fisicamente. La sensazione c'era stata, è una squadra che non ha ancora mai perso in casa, che ha la seconda migliore difesa del campionato dopo la Juve, quindi che potesse essere una partita rognosa l'avevamo in qualche modo già immaginato ieri, avevo previsto un pareggio, ma questo è stato un sbaglio. Quindi... Ma io guardandoti, ascoltandoti, guardando la partita e ascoltandoti nel primo tempo, si diceva, ma il Genoa può tenere questo ritmo per tutta la gara? La risposta più ovvia era no, invece ha tenuto quel ritmo per tutta la gara. Io però voglio chiederti, Montella oggi finisce per la prima volta in stagione sul banco degli imputati, perché quel turnover con Poli fuori ruolo, Ondà che aveva giocato 18 minuti in tutto il campionato, era così necessario questo turnover non avendo le coppe? Questa è una buona domanda, è una buona domanda. Credo che abbia un po' esagerato, avrei immaginato Suso un pochino prima, anche a partita in corso. Mi sembra che qualche problema nella gestione ieri, risultati alla mano, ci sia stato, però credo anche che, tornando al tuo tema di partenza, il Genoa sia una squadra che non solo corre molto, ma corre molto bene, cioè il motivo per il quale non è calato, anzi è cresciuta la distanza, è che è una squadra che lascia sfogare gli avversari, che ha un'intensità in mezzo, ma che alla fine secondo me ha una buona efficienza nella gestione delle energie. E questo è un dato oggettivo e secondo me ha complicato non poco la vita al Milan. Poi il 3-0 è risultato anche pesante, perché poi c'è la follia di Paletta nel secondo tempo che cambia completamente gli equilibri e sposta la partita. Per rafforzare il tuo pensiero c'è anche quello di Montella che dice più o meno la stessa cosa. È stata una partita, secondo me, primo tempo giocata a ritmo un po' basso, loro non ti fanno giocare, con marcatura uomo a tutto campo è difficile giocare, quantomeno ti portano a giocare su binario a loro più congeniale nelle ripartenze, ma anche nel primo tempo, al di là del gol, non credo, non mi ricordo che il Genoa abbia mai tirato in porta, insomma, quindi il risultato era un po' bugiardo, nel senso che loro sono stati quantomeno più bravi nel sfruttare quell'unica occasione che hanno avuto. Nel secondo tempo la squadra mi è piaciuta molto di più, mi è piaciuta moltissimo nella continuità di gioco, siamo andati vicino al gol varie volte, anche in 10, la squadra non ci stava a perdere, poi naturalmente l'espulsione ha complicato un po' le cose. Sì, ha complicato un po' le cose Pierluigi Pardo, però dallo stadio sì, anche c'è, tu... C'è un fondo di verità in quello che dice Montella, anzi più sì, di un fondo. Sì, quale? Beh, il secondo tempo è stato discreto, anche 10 contro 11, il Milan ha continuato a insistere, ha costruito qualcosa, soprattutto nel proprio fuso, è anche vero che nel primo tempo il Genoa si è tirato poco in porta, però... Sì, ma perdonami, ma Suso, che in questo momento è uno dei cardini del Milan, ma vale la pena, torno alla domanda aborigine, ti pare normale fare turnover su una squadra che funziona togliendo alcuni giocatori che sono determinanti? No, adesso noi ragioniamo ovviamente col senno di poi, è chiaro. Il risultato è com'è andata, era stato un errore clamoroso, perché Onda ha giocato male, tra l'altro ha responsabilità specifica sul gol del 1-0, mentre Suso ha dato ancora una volta la dimostrazione di essere dico, però insomma sappiamo il calcio moderno, anche se non hai le tre competizioni, comunque ha fatto di impegni molto intensi e di rose molto profonde, e probabilmente alla lunga l'idea di Montella, di qualsiasi allenatore, era proprio quella di recuperare giocatori che potrebbero essere importanti in futuro, quindi questa era l'idea. Ma è chiaro che di fronte a un risultato così c'è poco da dire. No, non c'è nulla da dire. C'è da dire che Milano è stato distrutto, Pierluigi. Sì, sì, insomma, è un ritorno alla realtà, è stato forse un ritorno alla realtà con vari errori. Però io fin dall'inizio, insomma, non sono d'accordo con Montella quando dice che comunque ha visto un buon Milan, perché io ho avuto dall'inizio l'impressione che il Genoa avesse l'inerzia della gara. Sì, ma poi posso essere semplicistico, una squadra che perde 3-0, con tutto il rispetto per il Genoa, ma insomma una squadra che va, oltretutto neanche in uno scontro diretto, fuori casa perde 3-0, non si può dire che abbia giocato bene, qualcosa non ha funzionato. Sono d'accordo sul fatto che nel secondo tempo la squadra è un po' cresciuta, che il Genoa nel primo tempo non avesse poi costruito così tanto, però certamente è un ritorno brusco alla realtà. E poi c'è la sciocchezza di Paletta, che chiaramente determina molto, no? Perché quella è proprio una follia, quindi tornare a certi errori individuali secondo me è abbastanza campanello che si accende. Chiaro, e poi, chiaro. Di personalità complessiva di una squadra molto giovane, che la prima occasione vera, no? Cioè la maturità la vedi anche appunto dopo la grande sborna della vittoria con la Juve. Chiaro, hai la possibilità di venire in testa alla braccino, dai, insomma, braccino. No, era una grande occasione, e forse è mancato anche un po' questo, è mancata anche un po' di abitudine, ma questo forse rientra anche nei difetti di gioventù di questa squadra. Ascolta, amico mio, ti lascio andare ai tuoi impegni, che so che oggi sono pressanti. Se possibile, ci risentiamo più tardi. Va bene. Ciao, Pierino. Baci. Ciao. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Bobo Viel. Tutti convocati. È un piacere e un onore, oltre che ricordare il numero verde 800240024 e ricordare che molti degli scrittori SMS, WhatsApp 349-238-6666 insistono sulla maledizione del battere la Juventus, cosa che riguarda sia il Milan che l'Inter. Diceva un piacere e un onore, come sempre, ospitare Paolo Condò. Ciao Paolo. Ciao Carlo, grazie. Ciao. È un grande piacere, un onore essere a tutti convocati. Senti, stavamo parlando prima con Pardo del Milan visto a Genova. Non so se braccino, ma io propendo più per così l'errore di Montella. Io per una volta, per la prima in questa stagione, metto un po' Montella sul banco degli imputati, perché non hai le coppe. E non ha senso cambiare una squadra in alcuni titolari in ruoli importanti. Ondava ha giocato 18 minuti in questa stagione. C'è Suso che è diventato un giocatore importante. Non ha senso in una notte come questa fare turnover, secondo me. Sì, probabilmente hai ragione, anche se dobbiamo sempre pensare che... Sì, probabilmente hai ragione, e sicuramente la ragione... Il motivo della serata molto grigia del Milan è dato anche e soprattutto da alcuni cambi che sono stati fatti. Detto questo, gli allenatori si muovono dopo che tutto il loro enorme staff, certo, dei medici, appunto l'indice giocatori, computer, tablet, ne ha estratto la goccia di sangue, quella goccia di sangue ha rivelato tutto sullo stato fisico e mentale del giocatore. Insomma, io scherzo, però sappiamo che queste cose vengono fatte, insomma, evidentemente qualche test aveva dato un po' di stanchezza in alcuni titolari, questo ci ha fatto capire che il Milan giovane che abbiamo visto nelle prime giornate di campionato è corto. Sì, è corto, cioè appena tiri via un paio di uomini il rendimento cala nettamente. Ma Paolo, non c'è dubbio sul fatto che sia corto, sul fatto che i ragazzini mirano una delle squadre più giovani d'Europa, e per questo la seguiamo con particolare simpatia. Affetto, interesse, certo. Simpatia, poi scegli tu l'aggettivo che vuoi. Sì, simpatia è quello giusto. Simpatia, Però insomma, dirmi che Suso, che è un bambino, è stanco dopo aver giocato con la Juventus, a me sembra forzato, nonostante i test dei computer, voglio dire, non avendo anche perché, le coppe, ripeto, anche non avendo le coppe. Spalle c'è Honda, che secondo me è stato un po' il simbolo dei mercati. Bravo, Paolo. Tristi. Bravo. Del Milan di queste ultime stagioni, perché poi la gran cassa, Gagliani è sempre stato un maestro nel suonare la gran cassa, e quindi è arrivato il sole nascente, il grande, insomma, Honda lo conoscevamo, era un giocatore sostanzialmente senza ruolo, tra Mosca e la nazionale giapponese, ballava fra varie, sì, tra varie posizioni. Era un, in Giappone è tuttora un mito, anche per questioni di moda, di eleganza, di fashion, così, però insomma, diciamo che è distante anche dal Nakata. Bravo. Che avevamo ammirato. Nakata è il Nakata 2.0, però, sì, però quell'altro era un po' meglio. Era molto meglio. Era un po' meglio. Senti, andiamo dall'altra parte del fossato. Dicono, sì, porta sfiga a battere la Juventus. Inter e Milan lo dimostrano. Sembrano dimostrare. No, lo scrivono i nostri ascoltatori, che sono liberi, sì, di, certo, intervenire, di, ma dire sono, quello che vogliono. Sono battute. Oggi abbiamo dei tifosi juventini. Oggi abbiamo anche un nuovo logo di Radio 24, bianco su campo azzurro. Non so se l'hai ancora visto. Sigla, no, liberi di voglia, libera la voglia di fare, il nostro nuovo incipit, la voglia di fare, vai, quello che volete, compreso ovviamente telefonare a tutti i convocati. Al di là di questa marchetta, sì, allora, Frank De Boer è un dead man walking verso l'ultima panchina nerazzurra? Ma quello, insomma, mi sembra che sia un, magari dead man walking è un po' troppo, però un allenatore a fortissimo rischio, anche se le varie anime dell'Inter sono fieramente divise sulla, spiegami quali sono le varie spiegami le varie anime dell'Inter quali sono. Allora, l'anima Moratti vorrebbe Leonardo. Va bene, l'anima Moratti che però dice io sono un, attenzione, io sono un tifoso. Sì, certo. Insomma, Moratti sì, è un tifoso, però sappiamo che presso l'opinione pubblica è molto ascoltato dai cinesi, soprattutto da Suning. Lui vorrebbe Leonardo. Sì. I dirigenti attuali dell'Inter spingerebbero verso un allenatore italiano. Ora, questo mi sembra anche abbastanza logico, sì, nel senso che se Leonardo viene, ma come qualcuno lascia balenare, hai già il desiderio o addirittura hai già parlato con Simeone della prossima stagione, che cosa fa Leonardo? Leonardo è multitasking e quindi può fare l'allenatore e poi l'anno prossimo resta del dirigente. Secondo te i dirigenti attuali come vedono questa prospettiva di avere Leonardo? Sai, i dirigenti attuali sono Savia Zanetti, che la prossima stagione. Allora, non voglio essere cattivo, però i dirigenti attuali sono Savia Zanetti, di cui ho un rispetto infinito, però che fa, certo, più o meno la bandiera, no, fa la bandiera da sventolare, sì, Simacone, però probabilmente vorrei fare qualcosa di più. Va bene, magari, magari deve imparare. Sono Ausilio, che è un eccellente uomo mercato, direttore sportivo, certo, è un eccellente direttore al sportivo, quale però non hanno ancora rifatto il contratto, quindi insomma, sì, anche lui immagino che sia, che abbia dei desideri, insomma, che c'è, ma legittimi, certamente c'è io lo chiamo ex presidente, anche se attualmente in carica, Rick Tohir, che venderà le sue quote quando gli converrà per motivi economici, che qui affidata la gestione della squadra sta in Indonesia. Ci sono i proprietari che stanno in Cina e componimi questo quadro, perché dire che è un Picasso è, secondo me, questo è un quadro che richiede assolutamente un dirigente plenipotenziario. Bravissimo. Con la fiducia totale. Bravissimo. da parte di Suning. Se io ti dico Leonardo dirigente e poi allora, lui è plenipotenziario? Mi fa piacere che l'abbia detto tu e anche quello che penso, però essendo un caro amico e facendoci anche una trasmissione assieme a Sky, dopo sembra che sia un concerto per lanciarlo, però l'identikit di Leo e mi spiacerebbe perderlo come vicino di sedia quando parliamo dell'Europa League. L'identikit di Leo mi sembra perfetto, anche perché... Sì, ma lo stiamo dicendo da mesi, prima ancora che tu sedessi su quella sedia, Paolino. Cosa che non guasta, Leo è l'ultimo ad aver vinto qualcosa con l'Inter, ha lasciato, da quel che ho capito, un buon ricordo a tutti i tifosi, ecco, non soltanto una parte, ma a tutti i tifosi, e quindi penso che il suo arrivo sarebbe uno di quegli eventi che ridanno un po' di fiducia, ridanno un po' di ottimismo a una tifoseria che è passata molto rapidamente dal toccare il cielo con un dito quando si sono resi conto. Io direi che quando arriva Joao Mario, che era uno dei giocatori più appetiti dopo l'europeo, certo, sul panorama internazionale, i tifosi dell'Inter hanno detto: abbiamo nuovamente una dirigenza con una forte capacità e una forte volontà di spesa, quindi hanno toccato il cielo con un dito dopo queste stagioni dove sempre ogni volta che compravi uno sembrava che dovessi vendere altri due, ecco, però i risultati è chiaro che in tutta questa dinamica estremamente complessa la figura di De Boer alla fine io la ritengo la meno colpevole. Ma sì, colpevole chi l'ha preso. Esatto. Poi ha i suoi elementi di colpevolezza in una certa dose, secondo me, di presunzione nell'arrivare, esatto, e dire cestino tutto quello che è stato fatto prima, un anno e mezzo di lavoro. Se tu mi segui anche su Sky ogni volta che viene, adesso non lo faccio più anche per non sembrare monotematico, ma io dico, ma se arriva José Mourinho, che è José Mourinho, e si prende Beppe Baresi al suo fianco per farsi calare bene nella realtà del campionato italiano, insomma, José Mourinho aveva già vinto una Champions, aveva già vinto le Premier League e così via, cioè tu che hai allenato soltanto l'Ajax, ma fallo lo sforzo di prendere uno del italiano che conosce bene, lui non l'ha fatto. La realtà oltre alla lingua, che conosce bene la realtà oltre alla lingua. A proposito di Mourinho, ti faccio sentire questo file. Lo fai sull'1-0, non sul 4-0, quello di arringare il pueblo del Chelsea contro il Manchester United umiliato. Tra l'altro Antonio Conte sarà tuo ospite, sarà il sabato, è il primo della nuova serie di Mister Condò. Primo della nuova serie di Mister Condò, comincia la grande con Antonio Conte. Ma Antonio Conte, che fino a una settimana fa incredibilmente addirittura era incredibilmente in discussione, ma tra i due quello in discussione adesso parrebbe essere proprio Giuseppe Mourinho. Non diciamo che De Boer non è l'unico allenatore d'Europa in difficoltà, ce ne sono anche di più importanti, ma sai, naturalmente, perché poi alla fine ogni campionato lo vince uno e quindi è fatale che gli altri pretendenti, e in Inghilterra sono tanti, proprio per questo motivo vadano in difficoltà. Allora, la cosa di Conte è stato un colossale equivoco, nel senso che lui ha perso due partite, una molto male contro l'Arsenal, e Abramovic, tra l'altro questo lo so molto bene perché io ero presente, perché l'intervista l'ho fatta in uno dei tre giorni della settimana seguente all'Arsenal, nella quale Abramovic è venuto a Cobham, al centro di allenamento del Manchester, della Chelsea. Lui è andato lì per sostenere Conte e per far vedere che lui proprio era... Difatti mi raccontava Antonio che lui si è fatto mostrare tutti i filmati tattici che lui fa vedere ai giocatori e approvava vigorosamente e diceva ottimo lavoro. I bookmaker però hanno visto questa presenza molto insolita di Abramovic a Cobham e l'hanno... Ma più che altro hanno detto, sai che c'è, per non lasciarci travolgere da un eventuale esonero, così via, sospendiamo le quotazioni. E la sospensione delle quotazioni ovviamente vuol dire sempre che tu pensi che questa cosa sia per verificare. Sì, certo. Però in realtà Paolo, poi le cose succedono anche a sorpresa. Però guarda, era serenissimo da questo punto di vista e poi sono arrivati. Ma sì, ma anche perché insomma sarebbe stata la più grande delle follie. Ma più che altro Paolo, esatto. Paolo, per chiudere l'altra parte, leggo questa intervista a Mourinho: la vita a Manchester è un mezzo disastro, a volte vorrei camminare un po' e non posso, vorrei attraversare Vorrei solo attraversare il ponte e andare al ristorante, ma non posso, questo è davvero pessimo. Ma per fortuna ho le mie app e posso farmi portare il cibo a casa. Sì. Vive in albergo, Giuseppe Mourinho. Se trovassi un buon appartamento con un buon passaggio diretto dal garage all'appartamento, forse lo prenderei, ma il problema resta perché non so cucinare. Fa quasi tenerezza, José Mourinho. Sì, e tenerezza associata a José Mourinho mi sembra veramente una cosa. Mi sembra veramente una cosa che non sta né in cielo né in terra. Allora, ho rivisto nell'immediato dopo partita, quando vado a Conte a dire ti hai umiliato. E poi in questa intervista dove parla della sua difficile vita a Manchester, ho rivisto il vero José Mourinho, finalmente. Quello che se ne studia una in tempo reale per distogliere l'attenzione dal modo in cui gioca e perde la sua squadra. Questo è il vero José Mourinho, che usa una persona di un'intelligenza e di un'astuzia superiore, e che in questo momento è nella palta fino a qui per quanto riguarda la costruzione della squadra, perché non riesce a venirne a capo. E insomma, ci sono dei giocatori che lo stanno tradendo abbastanza visibilmente. E non mi sto riferendo a Pogba, mi sto riferendo a Ibrahimovic. Perché Ibrahimovic ha cessato, dopo le prime 2-3 partite, ha cessato di essere una soluzione, è diventato un problema, perché il suo tipo di gioco condiziona tutti gli altri senza riuscire a migliorarlo. E senza fare i 300 gol con i quali al Paris Saint-Germain abbondantemente si meritava questo adeguamento da parte dei compagni. Ecco, e quindi Mourinho la sta studiando. Io ricordo quando Mancini era al Manchester City, abitava in una bellissima villa nella campagna a 40 chilometri da Manchester. E mi aveva mostrato la mappa e diceva: qui abita Rio Ferdinand, qui abita questa. Nel senso che tutti quelli che fanno calcio a Manchester abitano in un certo posto, nella famoso, Beverly Hills di Manchester, nella countryside. Ovviamente i due fenomeni vogliono vivere in città, perché Guardiola ha preso casa in città. Certo. Ecco, i due fenomeni vogliono stare in città. Vabbè, e stasera si affrontano Coppa di Lega, ottavi di finale su Fox Sport. Grazie Paolo, ti abbraccio tanto. Ciao Carlo, ciao, buongiorno ciao a tutti. Lancio la borsa, poi torniamo 800 24 00 24 per chiamarci. Facciamo anche la schedina e poi tutti convocati. Tra poco nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Ascoltatori Time, 800 24 00 24, in attesa del prossimo ospite. Alessandro, buongiorno, grazie della convocazione. Grazie a lei, dica. Guardi, allora è una cosa velocissima, io volevo parlare solo dell'Inter al volo, ho sentito cosa avete detto prima, sono abbastanza d'accordo su tutto, anche sulla suggestione di Leonardo come plenipotenziario. Alessandro, facciamola facile. Allora, ieri ne abbiamo discusso molto io e Pardo. Pardo dice sarebbe sbagliato esonerare De Boer in questo momento. E secondo io sono d'accordo. Perfettamente d'accordo, quindi la sua soluzione qual è? Tanto vale tutto. Guardi, no, semplicemente io credo, sono uno dei pochi probabilmente nel dare la fiducia a questo allenatore giovane che ha fatto tanto bene all'Ajax in un campionato nuovo. Credo che per esempio i nomi nuovi come Blanc sarebbe anche lui nuovo nel nostro campionato, perché ha guidato solo squadre francesi oltre che la nazionale francese, quindi credo possa infatti dare qualcosa di più. Soluzione secondo me bizzarra, e si parla di autocandidatura nonostante quanto scrivano in Francia. Quindi lei dice, si va avanti così, esattamente così? Si va avanti così, dando la responsabilità di quanto accaduto finora, come faccio io, ai giocatori che stanno mancando sotto il profilo del gioco, della personalità. I giocatori sono quelli però che per primi fiutano quando, essendo dei, con tutto rispetto, senza offendere nessuno, dei figli di buona donna, capiscono subito quando l'allenatore è il parafulmine di tutto, e quindi la responsabilità, ma tanto è colpa dell'allenatore. Io non sono così convinto di quanto abbia detto De Borra, la squadra sta tutta con me, io sento la fiducia di tutto il mondo, eccetera, eccetera. Non ne sono così convinto. Secondo me andare avanti così è pressoché impossibile, perché do retta ad Andrea Sorrentino di Repubblica, che è intervenuto ieri, che ha detto l'Inter è una corazzata che rischia di schiantarsi contro gli scogli. Oggi un ascoltatore mi ha scritto: ma Schettino non è che potrebbe essere allenatore dell'Inter? Bah, in questo momento forse sì. Allora, qualcosa bisogna cambiare. La cosa più semplice sarebbe l'allenatore, ma sono d'accordo sul fatto che, essendo stato chiamato 10 giorni prima del campionato e a quest'ora, sarebbe una cosa bizzarra. La cosa più semplice sarebbe stata chiamare un allenatore, convocare un allenatore italiano che mettesse in campo una squadra in maniera semplice e razionale. E poi, secondo me, l'Inter ha le stesse qualità, lo stesso organico che possono avere il Napoli o la Roma. Che si debba intervenire, secondo me, è indiscutibile. Gabriele, buongiorno. Ciao. Ciao. Sono un tifoso milanista, volevo fare 3 domande. Allora, sì. Io ho visto la partita con la Juve e ho detto, beh, Montella, genio, ha capito tutto. Poi ieri vedo il primo tempo contro il Genova e dico, non ha capito niente. Prima domanda, Onda è un giocatore di calcio? Secondo me no. Seconda domanda, stiamo discutendo sul turnover di Montella ieri. Sì, poi De Sciglio, quando sarà il suo anno finalmente di crescita? Perché io lo vedo sempre in un livello... Io ho visto un grande De Sciglio quest'estate in nazionale, l'abbiamo visto tutti. Beh, lo stesso, non è suo fratello. De Sciglio è un giocatore molto giovane, che come spesso capita ai giocatori molto giovani hanno una crescita rapida e poi vanno un po' in altalena. Deve evidentemente ritrovare fiducia, ha avuto problemi suoi, eccetera eccetera. Però sa cosa faccio? Le faccio rispondere dal mio amico mister Emiliano Mondonico. Ciao Mondo. Buon pomeriggio a buon tutti. Buon pomeriggio quanti. A lei. Anche se è un po' umido, però un po' umido, benissimo umido così. Brutto, tipicamente autunnale, mi viene una malinconia da morire. Però lasciamo stare questi dettagli. Però sono nati funghi, c'è un avviso a tutti i fungaioli. Trovato sono qualcosa? Nati, sono a quintalate. Ci sono più funghi che erba. Perciò, non vi dico dove, però, perché sono troppo facile. Non ho mai trovato un fungaiolo che rivelasse il luogo. Comunque, secondo te Montella ieri sera ha commesso un piccolo peccato di presunzione? Ma il Milan ha pagato la vittoria con la Juve, cioè vittoria con la Juve, trionfi destra sinistra, premio Oscar, la partita dopo la paghi perché presumi di essere quello che non sei, ed è chiaro che va incontro a delle situazioni di questo tipo. Poi può darsi che ci sia qualcuno nel turnover, ma secondo me, perché coi giovani il rischio è questo, no? Che passi dall'euforia. Questo è chiaro, vanno in altalena, come ti ho detto. Non era prevedibile, però chi chiaramente ha fatto calcio, cioè, così come una grande squadra non ne perde mai due di fila, una squadra così di giovani può darsi che in qualche gara non vado in campo con la cognizione giusta. Ho sentito prima il vostro ascoltatore che parlava di De Sciglio, ma io parlo di Bacca. Ma Bacca è quello che abbiamo visto ieri sera, ma anche con la Juve, ma Bacca, ma il Milan gioca per Bacca o gioca per altre cose? Sai che la figura di Bacca è come la figura di Higuain alla Juventus. È centrale, Emiliano è centrale. Cioè, il discorso è che non c'è una squadra che gioca per lui. Certo. Come la Juve, non gioca per Higuain. Lui è uno che la sbatte dentro. Bacca è uno che la sbatte dentro, ma devi giocare per lui, se no ti serve, se no giochi in 10. Che cosa pretendi? Che rincorra i difensori? Che cosa pretendi da uno come Bacca, uno come Higuain? Cioè, ma qual è il beneficio di avere questi? Che se giochi per loro te la buttano dentro, sempre. Sì. Diritto di Raffa, questi la buttano sempre, sì. Ma è che se non giochi per loro, e chiaramente diventano calciatori normali che possono questo è chiaro, fare bello che, brutta no, figura. Ma che, come ti ho detto, giochi in 10 contro 11 perché lui è deputato a fare quel mestiere. Ti chiedo un istante di pazienza per il traffico e poi ho altri argomenti da affrontare, compreso quel famoso episodio storico che ti qualificherà ormai per l'eternità. Tutti convocati. I love this game. Tutti convocati. Dunque, torniamo con Emiliano Mondonico per insomma, prendendo spunto da un episodio storico, cioè da una delle foto più famose della storia del calcio italiano, cioè Emiliano Mondonico che in campo alza la seggiola contro qualcuno. Quel qualcuno è l'attuale allenatore dell'Inter, Frank De Boer, che aveva colpito duro Cravero, giusto? Cioè dovrebbe essere così. In no, dovrebbe. Cioè, ma in realtà non gli aveva fatto niente, era Cravero che si era buttato in terra. Ah. E sapessi quante volte l'ho maledetto dopo, perché avevo anche la sedia, ma la sedia era per l'arbitro. La sedia era per l'arbitro. Come sì. Fai questo qua davanti alla porta, va per terra, te non fischi rigore. Gli do una sediata come si usava nelle osterie. Una volta non è che saltavano fuori le lame o le rivoltelle. Una volta quando uscivi di sedia. Quando a scopa uscivi di singola ed eri di mazzo. Lì è chiaro che avevo alzato la sedia per quest'arbitro per fargli capire che non eravamo lì per caso, e invece dopo era un rigore che non c'era. Ma l'ha fatto davvero? Sì, pare proprio di sì. Non l'ho fatto, ecco, vorrei incontrarlo per dirgli guarda che la sedia non era, da domani avrai anche tempo, perché molti dicono che da domani comunque vada stasera con il Toro, che è una squadra che a me piace da morire, che è estremamente seria, che la affronta San Siro, da domani potrebbe essere nella lista disoccupati. Vediamo un po', anche se penso che domani l'Inter giocherà al meglio delle sue possibilità, cioè non ci saranno più nemici e amici, anzi ci saranno nemici e amici che vorranno dimostrare di essere una squadra. Ma brutalmente perché... tu lo cambieresti? No, perché se io prendo un allenatore straniero devo dargli 6 mesi. Sì, me l'hai detto l'altra volta, ma 6 mesi l'Inter non ce li ha, perché tra 6 mesi... Allora se non te li dai non devi prenderli. Io dico, se mandi via Mancini, non puoi pensare che un altro possa fare meglio italiano. L'allenatore straniero è chiaro che può portare altre situazioni, altre soluzioni, anche se mi sembra che De Boer in questo momento sia un po' frastornato. Ma penso che la partita di oggi, che domani, di questa domani, sera stasera, sia di oggi sia, stasera certo 20:45. Ecco, sia determinante perché vedremo veramente chi è e com'è l'Inter. Il Toro lo conosciamo e chiaramente sarà la bilancia dall'altra parte, perché è una bella gara toro, dove è un bel Toro Emiliano questo, a me piace molto. Io l'altro giorno ho definito il matrimonio tra questo tipo di Torino fatto di giovani con grande talento e con grande voglia di emergere e Mihajlovic come un matrimonio perfetto. Cioè Mihajlovic dice non andiamo in Europa, se non andiamo in Europa non abbiamo fatto niente. Cioè, dove vai a trovare un allenatore che dice noi vinciamo lo scudetto, se arriviamo secondi è stato un campionato fallimentare. Dai, tutti quanti cercano di dire, tu leggi oggi i giornali, ma questi sono bravi, quelli sono bravi, gli altri sono bravi, sì, o sì. se le hanno perse tutte, ti dicono c'è la norma che ogni tanto qualcuno la vinci, è una balla e l'altra. Invece Mihajlovic va subito al sodo e dice oh amici, se non andiamo in Europa è un campionato fallito. Certo. Basta. E chi è quell'allenatore? Ecco perché penso che sia sicuramente un allenatore da Toro e mi auguro che abbia che abbia ragione. Poi se vuoi ti racconto un po' le ultime avventure della mia cascina, che c'è un qualcosa di... Cosa è successo lì? È successo che una volpe ha fatto fuori le galline. No, mi entra e ogni notte mi porta via una gallina. Anzi, la sgozza e poi dopo... Cioè, adesso non so se hai i piccolini o se è l'ora o il tempo che ci sono i piccoli, però cavoli, cioè, come faccio? Ho cercato di rinforzare la rete, ho cercato tutte le cose, però questa è furba, guarda, entra da tutte le parti. Uno come te non riesce a fermare una volpe. Fermata, ma non ci... perché io sono andato indietro a pensare i tempi dei miei studi, sì, e mi ricordavo di una poesia, se così si può chiamare, La volpe e l'uva. Sì. E allora cosa ho fatto? Ho messo le galline sotto la pergola. E ognuno ha il suo pied à terre, dove va a riposare, e ti dirò che da quando ho messo le galline, e non sono 10 o 20, saranno una cinquantina, sotto la pergola, la volpe è stata ha un po' più fame, diciamo. Mi è successo però un disguido, cioè? Che due galli sono caduti e sono diventati capponi. Aia. Beh, allora, vanno bene per Natale, dai, siamo a fine ottobre. E infatti li ho messi di sparte e per Natale abbiamo già il pranzo. Mi spiace per loro, adesso non lo so se voi... Mi spiace anche per gli animalisti, amici di Cruciani, però saranno il pranzo di Natale. Ascolta, io ho un minuto, posso farti fare la schedina di oggi? La schedina di oggi? La schedina di questa sera, dai. Veramente voi siete... Io sono cattivo, lo so. Chievo-Bologna. Chievo-Bologna 1, Fiorentina 1, uno senza neanche. Inter-Torino, stai attento. Inter-Torino, ho letto, non mi ricordo più chi, che ha detto 2-2. Anch'io dico X. X. Juve-Sampdoria 1. Lazio-Cagliari 1. Napoli-Empoli 1. Pescara-Atalanta 2. 2. Queste sono le ragioni del cuore, va bene. Sassuolo-Roma X. Lasciamo stare Palermo-Udinese, che tanto si gioca domani. Grazie. Se voi possiamo parlare anche di Juventus-Napoli di domenica, che penso sia di sabato. Avremo tempo, una delle gare ti comunque ricordo. Segnatele queste, perché voi mi continuate a fare le, e poi no, dopo non ma so io, mai io, se Gio, ho no, preso no, no. Ma io, Giorgio De Luca, scrive tutto. La prossima volta che ci sentiamo ti dico quanto hai fatto, se hai fatto 13-10, non so più neanche come funzionano. Paghiamo la posta con il nuovo logo di Radio 24. Grazie Emiliano. Tutti convocati. Non si fa fatica, ragazzi. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Tutti convocati. Allora ragazzi, vi ricordo che domani saremo in esterna e vi invito a venirci a trovare anche di persona, se ne avete voglia, a Parma, a Cibus Tech. Trasmetteremo da lì e siamo pronti ad accogliervi in studio, anche di persona, oltre che in voce, come facciamo sempre, 800 24 00 24. Prima di andare dritti su un Giro d'Italia che qualcuno ha criticato, perché Giro d'Italia numero 100, il primo in granata targato Urbano Cairo, molto orgoglioso, però un Giro d'Italia estremamente duro, volevo spiegarvi una storia rapidissimamente, perché oggi su tutti i giornali, dopo l'assemblea dei soci di ieri, si scrive, ad esempio Gazzetta, tra Agnelli e Federcalcio è scoppiata la pace, così è su molti altri giornali, anzi su tutti i giornali. In realtà pace fino a un certo punto, a quanto pare più patto di non belligeranza, nel senso che la Juventus è disposta ad appoggiare questo governo a condizione che non ci siano più personaggi ingombranti in stile Lotito, e a condizione che questa governance fatta ovviamente da Tavecchio e da Michele Uva, a condizione che appunto non siano più personaggi ingombranti e che si proceda sulla strada delle riforme. Questo tanto per chiarire quanto abbiamo letto oggi sui giornali, lo faccio quasi con dovere di cronaca. Andiamo invece sul Giro d'Italia che verrà, che è il numero 100, che è il primo in granato oltre che in rosa, data la presentazione, qui ero ovviamente presente, il nuovo numero 1 di RCS Urbano Cairo. Saluto ovviamente Pier Augusto Stagi. Ciao Pier. Che ce Ciao Carlo, buon pomeriggio. E saluto con grande piacere Mario Cipollini. Ciao Mario. Super Mario, ci sei? Super Mario Cipollini arriverà tra un attimo, almeno ci riproviamo. Intanto ce l'abbiamo? Non ancora, ce l'avremo tra poco. Allora Pier Augusto, Giro che nasce in Sardegna, ad Alghero, a casa di Fabio Aru. A proposito, sentiamolo Aru. Ci tenevo a essere qua alla presentazione del Giro, che partiva dalla mia terra, perché comunque sia l'anno scorso non ho potuto esserci perché impegnato in delle gare, quindi ho deciso di anticipare un po' il rientro dalle mie vacanze per poter essere qua. Sarà tutt'altro che semplice, sarà molto incerto sino alla fine, ci sarà una arrivo in salita il quarto giorno, una cronometro l'ultimo, quindi anche adatto a, anzi sicuramente adatto a dei corridori molto completi. Vedremo, dai, io adesso i prossimi giorni inizierò la mia preparazione e poi vedremo i programmi da farsi con la squadra. Questo è Fabio Aru, padrone di casa della partenza ad Alghero. È arrivato Super Mario Cipollini. Ciao Mario, grazie. Ciao, buongiorno, ciao. A tutti. Tu sei stato critico nei confronti di questo Giro d'Italia, perché? Io non sono stato critico nei confronti del Giro d'Italia, ho fatto un'analisi tecnica, sì, in questo giro. È un giro estremamente esigente. Credo che chi vuol partire per tentare di vincere questo giro deve avere un programma specifico e finalizzato soltanto a questo Giro d'Italia, perché ti impone di avere una condizione totale dal quarto giorno fino all'ultimo giorno. Sì. Normalmente in un grande giro i primi 10 giorni non c'è una tappa che possa fare la differenza. Un arrivo in salita come la scalata dell'Etna il quarto giorno, naturalmente non si vede chi sarà il vincitore, ma qualcuno dei candidati alla vittoria viene fatto fuori, perché è storico, è sempre capitato così, arrivo in montagna ci sono delle vittime illustri. Sì, come ci ha raccontato mille volte Pier Augusto Stagi, la prima salita è quella in cui capisci chi non ha la possibilità di vincere il giro, non chi ha la possibilità di vincerlo, no, Pier Augusto? Allora, può essere che un corridore che rimane a perde terreno il quarto giorno, magari la terza settimana, possa fare la differenza in montagna. È capitato moltissime volte. Perché? Perché in una gara di 3 settimane normalmente uno non può pensare di avere 21 giorni in cui la condizione è al top. Ci sono dei momenti in cui normalmente nel ciclismo si cerca di interpretare la prima settimana una sorta di messa a punto del motore, una sorta di avvicinamento alla performance massima, per cui in qualche modo si prende, non dico sotto gamba, ma con un certo avvicinamento in modo più semplice. Sì, certo. Questo Giro Italia non te lo permette, perché l'Etna sono 1900 metri di altezza, per cui già salire in quota non è così facile. Per di più il 19esimo giorno, ora non ricordo, si fa 2 volte lo stelvio, si va oltre 2500 metri, per cui avere una condizione fisica che ti permetta di essere competitivo il quarto giorno, che avviene dopo 2 giorni, più un riposo, per cui sono delle difficoltà sommate una sull'altra. Sì. Fammi sentire Stagi, se è d'accordo con te o se ha qualcosa da aggiungere, poi ribattiamo. Stagi. No, sono d'accordissimo con quello che dice Mario. È un giro molto esigente e devi partire, se non al 100%, quello che dice Mario, devi partire perlomeno al 90%, quindi è tanta roba, perché come ha sottolineato, spesso i corridori dei grandi giri, non dico che vogliono arrivare nella terza settimana al top, però non certamente dopo 4 giorni. Invece qui nella quarta tappa ci sarà da faticare non poco. È una tappa dove può far fuori veramente la metà dei pretendenti. In un grande giro generalmente chi ambisce alla, diciamo, la top 5 sono 10 corridori e sto già largo. Sì. Ecco, dopo 4 giorni di sicuro capiremo chi sono i 3-4 corridori, tre corridori che potranno giocarsi questo Giro d'Italia. Mm. Molto, molto esigente, per certi versi anche un po' eccessivo. Un po' eccessivo, ne ha già parlato, l'ha accennato Mario, alla 16ª tappa, nella stessa giornata c'è un tappone che è talmente tappone che ho paura che poi alla fine, come spesso ci troviamo a dire, la montagna potrebbe partorire il topolino. Sì. Nella stessa tappa, Mortirolo e la doppia scalata dello Stelvio, sembra una cosa che tu puoi essere anche il più grande scalatore del mondo. Riportiamo, sì, e vorremmo tanto, se io che Mario, riportare Marco Pantani al giro, ma forse anche lui direbbe: ragazzi, ma siete... È qualcosa di talmente duro che forse Mario non è nemmeno, tra virgolette, tecnico, no? Sì, ha fatto un appunto tecnico intelligente, Stagi, perché è normale che quando ci siano tantissime difficoltà da superare, i corridori cominciano ad avere una gestione, perché non si è illimitati nelle energie, e per cui questo possa essere un limite alla spettacolarità del duello tra atleti, ma che comunque ci sia una gestione. E poi si lasciano soltanto gli ultimissimi chilometri e tutto il resto viene quasi considerata, non dico noia, ma niente di emozionante. Ora io vorrei fare una mia riflessione, che da ieri ho cercato di mettere e crearla. Non vorrei che in quei signori che stanno disegnando questo, che hanno disegnato questo Giro d'Italia, trovando sponda in Cairo, abbiano cercato di ripercorrere un'ideologia che è nata al Tour de France anni fa, e cioè il Tour de France è diventato la gara ciclistica più importante del mondo perché negli anni passati era la gara più dura del mondo, ma era dura non soltanto da un punto di vista altimetrico, era dura perché c'erano tantissimi spostamenti, spesso le tappe arrivavano in zone, non dico represse, ma dove non c'era un'accoglienza a livello alberghi, certo, per cui venivano messe a dormire nelle scuole piuttosto che nei conventi o da altre parti, per cui si trovavano campioni come Max a dormire non in un letto ma in un lettino tipo quelli da spiaggia. Sì, ok, questo sì, allora sì. È creato il mito del Tour de France. In questo momento non vorrei che stanno cercando di ripercorrere una cosa che è basata sulla estrema performance, andando a estremizzare ancora troppo le energie richieste in un ciclismo tra virgolette moderno. Ora io vorrei fare una provocazione a Cairo, ma per rendere più importante il Giro d'Italia o cercare di recuperare quel gap che ormai il Tour de France ha creato fra il proprio evento e tutte le altre gare ciclistiche, sarebbe più interessante, secondo me, cercasse in qualche modo di convincere il signor Murdoch a portare Froome e il Team Sky al Giro d'Italia come obiettivo principale, cioè dire noi non consideriamo il Tour come obiettivo principale, ma vogliamo provare il Giro d'Italia e aiuteremo il Giro d'Italia ad avere una sponda con la nostra piattaforma per renderlo ancora più importante, perché non vorrei che noi facessimo una cosa straordinariamente dura ma che rimanga in quello che è il territorio italiano e che l'estero non sappiano che c'è una cosa così. Questo è chiaro, sarebbe qualcosa di rivoluzionario, perché tante volte abbiamo visto campionissimi, Armstrong compreso, partecipare al Giro d'Italia soltanto come stage per poi andare a vincere il Tour de France. Non abbiamo Urbano Cairo, che peraltro è un amico e ci ascolta sempre in linea. Non so se ci vuole chiamare, è liberissimo di farlo e di rispondere a questo. Intanto faccio rispondere a questa provocazione da Pier Augusto Stagi. Ma Mario dice una cosa estremamente, a parte il fatto che condivido, che anzi sono convinto che questo Giro d'Italia è estremamente duro, ma con il doppio dei chilometri contro il tempo a cronometro rispetto al Tour de France si addica perfettamente a Chris Froome. Se lui venisse a correre il Giro d'Italia, lo vincerebbe perché ha 70 chilometri a disposizione contro i 32 del Tour de France, e c'è tanta montagna. Una volta che lui ha guadagnato a cronometro non lo stacchi più, perché quello è un fenomeno anche in salita ed è durissimo. Detto questo, però, Mario pone l'accento su una questione che tra l'altro si è già verificata negli anni 90, proprio poco prima o durante l'esplosione del fenomeno Marco Pantani nel 1994, il Giro d'Italia passò dalle reti Rai alle reti Mediaset. La prima cosa che hanno fatto gli amici di Mediaset, che hanno letteralmente rivoluzionato il modo di proporre il ciclismo in televisione e hanno svecchiato anche uno sport che è ancorato ed attaccato giustamente alla storia, alla sua storia, però deve anche guardare oltre. Cosa hanno fatto? Non state lì a disegnare, come dice Mario, un giro durissimo. Hanno detto: chi è il corridore in questo momento più forte del mondo? Qual è il corridore che ci fa Chris Froome, dai. E sono andati in Spagna e hanno ingaggiato Miguel Indurain. Tre anni. Loro l'hanno avuto per 5 anni in Giro d'Italia, se non mi ricordo male, però per 3 anni Miguel Indurain è venuto. Sì, però fare questo giro per vincerlo vuol dire perdere la possibilità di essere competitivi per il Tour de France. Tra l'altro, per chiudere, Mario, non ci sono nemmeno grandi chance per la tua categoria di appartenenza, cioè per gli sprinter. Ma no, gli sprinter hanno le loro possibilità, nel senso qualcuna. Che ci sono delle purtroppo prima, è terza questo. Tappa non c'è tanto, ma nel ciclismo che ho vissuto io ce n'erano ancora meno a volte, per cui è facile andare a un giro e vincere 8-9 tappe come è capitato per un velocista, ma io sono riuscito anche a vincendole tutte a vincere 4 tappe in un Giro d'Italia, per cui le opportunità per il più forte naturalmente ci sono. C'è da sapere che è un Giro d'Italia dove si fa fatica anche per arrivare in volata, perché ad esempio già la prima tappa ad Olbia bisogna superare San Pantaleo, e se gli scalatori per caso o atleti che non vogliono arrivare in volata decidono di non farlo, quel giorno già, il primo giorno, può essere fatto fuori. E per cui devi rimandare a quello che saranno i tuoi giorni obiettivo. Certo. Grazie Mario. Grazie a voi. Grazie davvero Mario Cipollini, grazie per Augusto Stagi. Tanto ci risentiamo a Stretto Giro di Posta. Dante e Giuseppe sono 2 ascoltatori in linea. Buongiorno Dante. Buon pomeriggio. Ascolti, io sono tifoso dell'Inter. Si parla tanto dell'organico dell'Inter. Io vi faccio una domanda. Secondo voi, tra le migliori 30 squadre europee, in quali squadre giocherebbero titolari D'Ambrosio, Nagatomo, Danton? 30 migliori squadre europee. Io dico che l'Inter è tra le migliori 4 squadre d'Italia. Beh, mettiamola che la Juventus faccia un altro campionato e sia in un altro, insomma, in un altro sport. Io credo che dal punto di vista dell'organico, senza stare a Santono, D'Ambrosio, eccetera, eccetera, dico che come organico, profondità dell'organico e qualità, l'Inter non è distante dalla Roma e dal Napoli. Questo glielo posso dire. Poi, dove possa essere piazzato nel ranking europeo, questo non glielo so dire. Certamente, dal punto di vista dell'organico, l'Inter ha fatto un mercato al rialzo e ha creato, a mio parere, lo ripeto da quest'estate e ne resto convinto, una rosa competitiva. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno. Io telefono da Pesaro. Senta una cosa, io non me ne intendo per niente di calcio, però se ne intenderà di basket. Ho vissuto più di 20 anni a Milano e mi farebbe piacere che se ne intenderà le squadre di Milano avessero, dicevo prima, un certo successo. Sì. Allora, le proprietà sono tutte e due cinesi. Perché questi benedetti proprietà non si incontrano e dalla sera alla mattina fanno una nuova società che si chiama Milambro, dove si mette insieme Milan un po' di Milan, un po' di Ambrosiana e tutto unito dall'Ambro? Sa perché? Perché sarebbe la morte del calcio a Milano, come è successo. E Davide Pessina, che saluto con grande piacere, affetto e amicizia. Ciao, buongiorno. Ciao Davide, lo sa benissimo, perché questa l'abbiamo già vista. Mi viene in mente subito Livorno, cioè non esatto. Puoi unire realtà che sono nate sotto campanili diversi, no Davide? No, sì, la vedrei difficile riuscire a fare una fusione del genere, mettiamola così, sì. No, contrario su tutta la linea, al derby, campanili sì, sono sì, i campanili sì. E il Naviglio divide tutto a metà. Esattamente. Senti, hai cominciato a fare gli orari americani, no? Sì, più o meno, poi in realtà l'ho doppiata stamattina la partita, però cominciata la stagione. Cominciata la stagione, rischia di essere una specie di campionato italiano di calcio dove la Juventus è strafavorita, dove o campionato di basket dove l'Armani Milano, ne parlavo ieri con Andrea Meneghin, sembra una corazzata mentre le altre sembrano paperelle. Nonostante fino a stanotte forse sì. Diciamo che la prima partita ha fatto sì che Golden State appunto, abbia preso una bella pettinata ne da ha San Antonio. 25 in casa da San Antonio. Ma secondo te c'è questo rischio, questo pericolo? Non esiste? Secondo me no. Non esiste. È vero che probabilmente, cioè oggi tutto lascia pensare che la finale possa essere il terzo atto di nuovo tra Cleveland e Golden State. Però devi giocare 82 partite prima, devi giocare i playoff, per cui insomma sorprese possono sempre essercene. Per cui non è così scontato. E poi è vero che adesso ho ancora un po' negli occhi, ecco. La brutta partita di Golden State contro San Antonio, per cui ti viene da dire è molto forte, però deve sistemare due o tre cose, magari anche in fretta. Sì, sappiamo perfettamente che al tempo di Halloween, cioè quando comincia l'NBA, si gioca un basket più soft, si comincia poi a fare sul serio da gennaio in poi, ed in particolare dopo lo All-Star Game, da lì si entra in un altro tipo di pallacanestro. Tu vedi qualche tipo di vedi una squadra che possa essere sorprendente per questo campionato? Beh, sorprendente totalmente non lo so, però ci sono squadre che non so se possono arrivare in fondo, ma qualcosa possono fare. Utah, per esempio, secondo me può essere una squadra interessante, che tanto che è un po' sparita dal, diciamo, il basket di primissimo livello NBA. Utah è una squadra interessante. Boston è una squadra che secondo me è molto interessante, che è da seguire, che può far molto bene, poi da lì appunto arrivare, sopravvivere ai rigori della stagione NBA, soprattutto ai playoff e giocare la finale è difficile, però ci sono tanti motivi di interesse. Ci può essere un pericolo per Golden State di metabolizzare Kevin Durant? Beh, non è così automatico. Uh-huh. Cioè non è che la somma è così proprio automatica, tu prendi più 4-5 giocatori tra i più forti di tutti e diventano i più forti, la squadra migliore. Al tempo ci vuole un attimo di pazienza, di lavoro e di capacità dei giocatori di riuscire a trovare un linguaggio comune, però è chiaro che tutto fa pensare che questa possa essere una squadra che può far molto bene, soprattutto divertente da vedere. Sì. Secondo me la sveglia che hanno preso stanotte è un campanello d'allarme importante, ti fa capire che appunto le cose non succedono automaticamente, ci devi mettere del tuo. C'è un ascoltatore che mi scrive: a me intrigano molto i T-Wolves, sì. Ce n'è un altro che ti fa Milwaukee Bucks ma ricordando Happy Days, quindi questa è un'altra storia. I T-Wolves di Minnesota sono molto interessanti, però secondo me non bisogna metterti pressione adesso, una squadra molto giovane, ha preso un allenatore tipo molto bravo, però ci vogliono secondo me ancora almeno un paio d'anni perché possano essere davvero competitivi. Un'ultima cosa, Davide, New York, che è un po' il Godot del basket americano, tutti l'aspettano ormai. Aspettiamo ancora un attimo. Dall'inizio degli anni 70, quando Phil Jackson giocava nei New York Knicks, aspettiamo ancora un attimo e rischiamo di diventare nonni perfino io e te nella stessa età. Mi sa che no, è sicuramente più forte dell'anno scorso, però ci vuole ancora un attimo, mi sa. Grazie Davide, grazie, buon lavoro. Voi. Ciao, ti ciao, abbraccio. Ciao, grazie a Davide Pessina. Intanto Milano ieri sera ha perso la prima partita in Eurolega con l'Olympiakos, questo Potrebbe essere un esame del 9, ma una sconfitta rimediabile. Però domani sera arriva a Milano in questa centrifuga che è la, la nuova Eurolega, centrifuga che io trovo meravigliosa. Domani sera a Milano c'è il Real Madrid. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, a Andrea Roccabella in regia e a Alvise Falzoni in redazione. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao a tutti.